Esser dovrà d'un silva a due seduttori o scorto. Entrate là, miei fidi cavalieri. Se ognun testimon del disonore, dell'onta che si reca al suo signore. Signori, in ultimo non andrò, scudieri, dazza me, la spada mia, non dico sì, amor, vendete tosto. Del perfido, la man non tremerà, non tremerà, non tremerà. Cercando il sen del perfido, la man non tremerà, la mamma, la mamma, no, no, non tremerà, la mamma non tremerà. Dice, resta il pedaldo ancora. subito, degno che mi divorò. Cercando e scende il perfido, la man non tremerà, non tremerà, non tremerà. Cercando e scende il perfido, la man non tremerà, la man, la man, no, no, non tremerà, la man non tremerà.